Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Non lasciatevi ingannare da quello che sentite. Oggi Destini Incrociati non vi accompagna in un percorso di nostalgica rievocazione di vecchie sigle di cartoni animati, come in effetti suggerirebbero le note che state ascoltando. Si tratta naturalmente della celebre melodia che accompagnava l'inizio di Heidi, anime di coproduzione tedesca e giapponese, disegnato dal grande Hayao Miyazaki. Heidi letteralmente significa ragazza delle Alpi, e questa musica di fatto ci serve soltanto come pretesto per evocare il punto di partenza del nostro viaggio. Un punto speciale, tutto italiano, situato ai piedi della splendida catena delle Dolomiti. Destini Incrociati oggi vi porta in Val Gardena. Ridente e luminosa valle adagiata alle pendici di splendide montagne, la Val Gardena, Gröden in lingua tedesca, è una lunga distesa di prati e di balconi fioriti in egual misura, tendine ricamate e staccionate scrupolosamente dipinte. I suoi paesaggi da cartolina, manco a dirlo, sembrano usciti direttamente dall'immaginazione della piccola Heidi, stretta tra una corona di margherite e una capretta che le fa ciao. Ortisei, il comune più popolato della valle, è un vero paradiso per i turisti, decine di migliaia ogni anno. Nascere a Ortisei, spesso e volentieri, vuol dire portare avanti l'impresa di famiglia, che si tratti di un albergo, di una pensione, di un caffè o di una piccola impresa di artigianato, magari specializzata nell'intagliare o dipingere il legno. Sbaglia chi crede tuttavia che il destino sia necessariamente segnato dalla nascita. C'è un figlio della Val Gardena che, a differenza dei suoi conterranei albergatori, osti e artigiani, ha scelto di fare il musicista. E la sua musica, a dirla tutta, non ricorda nemmeno da lontano gli yodel, i canti e le melodie tipiche dell'area alpina. Il pezzo che sentite in sottofondo si intitola Chase, in inglese letteralmente significa fuga, un nome scelto tutt'altro che a caso. Questa canzone, infatti, costituisce l'ossatura della colonna sonora del film Midnight Express, in italiano Fuga di mezzanotte. Chase, inoltre, può essere considerata una sorta di moderna fuga elettronica, costruita imitando la struttura delle fughe tipiche degli spartiti classici. Il suo autore, uno dei veri pionieri della musica elettronica, si chiama Giorgio Moroder. Giorgio Moroder. L'influenza di Giorgio Moroder è stata imprescindibile. Le piste da ballo sarebbero completamente diverse ora se non fosse stato per lui. Il giornalista Edwin Pouncey ne è certo. Il mondo della musica è stato letteralmente sconvolto dall'avvento di un genio del calibro di Giorgio Moroder. Viene quasi strano, surreale, credere che a partire dal retroterra di un uomo cresciuto in un luogo bucolico, come la Val Gardena, sia scaturito un coacervo di suoni robotici e sintetici, all'apparenza così lontani dalle logiche che hanno governato la composizione e la produzione musicale fino alla metà del secolo scorso. Non ci si sbilancia affatto affermando che Giorgio Moroder è uno dei pionieri del futuro, uno degli uomini che più hanno contribuito a creare l'avvenire della produzione musicale da qui fino a chissà quali altre dimensioni spazio-temporali. La musica elettronica per molti di noi è un territorio ancora pressoché sconosciuto. Eppure ha popolato le nostre vite e il nostro immaginario degli ultimi 50 anni in maniera molto più persistente di quello che possa sembrare a un orecchio non troppo allenato all'ascolto. Quando si parla di musica elettronica, si intende un tipo di musica i cui suoni sono totalmente o parzialmente, ma sempre in misura preponderante, prodotti mediante strumenti elettronici e non strumenti tradizionali quali fiati, archi, ottoni, cordofoni e via discorrendo. La componente elettronica, dunque, non viene utilizzata solo per la registrazione e la diffusione della musica, ma fa parte piuttosto del contenuto stesso della composizione. Nella musica elettronica, l'elettronica, per l'appunto, è l'elemento fondante e non unicamente legata ai criteri di servizio. Il primo lontano antenato degli attuali strumenti elettronici è il telarmonium, un gigantesco macchinario di 200 tonnellate simile a un organo inventato dall'avvocato imprenditore americano Thaddeus Cahill nel 1897. Se il telarmonium non ha grande fortuna, va decisamente meglio al theremin, assemblato a Mosca nel 1917 da Leon Theremin. Si tratta di uno strumento la cui natura ancora ai giorni nostri appare avveniristica. Non esistono corde o tasti da toccare. Il theremin è una scatola munita di due antenne che producono un campo magnetico. Tale campo magnetico traduce la posizione delle mani di chi lo suona in toni più o meno acuti. Il suono che sentite accompagnare il pianoforte non è un violino, come potrebbe suggerirvi il vostro orecchio. Si tratta bensì di un theremin. A suonarlo è la virtuosa Clara Rockmore, grandissima interprete di questo strumento. Clara è impegnata in delicati movimenti delle mani che, quasi sfiorassero le corde di un'arpa invisibile, interferiscono con il campo elettromagnetico creato dalle antenne. Il suono è controllato proprio attraverso il movimento degli arti superiori. Utilizzatissimo nelle colonne sonore dei film di fantascienza degli anni 50, il theremin è in voga ancora oggi. Il suo fascino, a quasi 100 anni di distanza, resta pressoché immutato. Negli anni 30, intanto, fanno la loro comparsa i primi strumenti elettrificati come il piano, la chitarra e l'organo Hammond. Il successo di quest'ultimo è tale che Hammond, letteralmente, diventa sinonimo di organo. Il concetto di musica in virtù dell'invenzione di questi strumenti si allarga fino a includere una gamma di suoni non strettamente musicali, rumori ambientali, industriali, fischi del treno, clangori di lamiere. Se negli anni 40 si assiste all'avvento dei transistor e dei primi elaboratori elettronici, è negli anni 70 che si ha la svolta decisiva. Irrompono infatti sulla scena i sintetizzatori analogici e i primi campionatori. Il 1964 è un anno fondamentale. A questa data, infatti, risalgono le invenzioni di due importanti strumenti, come il Moog, il primo sintetizzatore a tastiera, e il Mellotron, il primo campionatore in grado di riprodurre spezzoni di nastro preregistrato. Sarà proprio con questi nuovi ritrovati della tecnologia che di lì a qualche anno si ritroverà a giocare il giovane Hans-Jörg Moroder. Giorgio viene dal Tirolo. Dal Sud Tirolo. Benché ci tenga a precisare le sue origini altoatesine e dunque italiane, Hans-Jörg Moroder, detto Giorgio, non può certo restare confinato nella pur paradisiaca valle in cui è nato e cresciuto. A metà degli anni 60, il luogo giusto da frequentare per un appassionato di musica e suoni che hanno poco a che fare con la natura in senso stretto è uno solo: la Germania. È qui, in terra teutonica, che i suoni elettronici pian piano stanno uscendo dai territori prettamente sperimentali per riversarsi un po' alla volta nella pop music. Monaco di Baviera, seconda metà degli anni 60. Giorgio Moroder, che padroneggia il tedesco come fosse la sua lingua madre, si trasferisce qui in cerca di fortuna. È giovane, talentuoso, intraprendente e non è il solo. Bazzicando l'ambiente dei musicisti in città, incontra l'inglese Pete Bellotte, più giovane di un paio d'anni e intenzionato proprio come Giorgio a sfondare nel mondo della musica. I due iniziano a collaborare, uniscono le proprie abilità, i propri gusti musicali e Giorgio, a dire il vero, ci mette anche la faccia. Lucky Lucky par Giorgio. Questa è l'esibizione di Giorgio Moroder in versione hippie basettone nello show televisivo francese Musicolor del 1969. I primi esperimenti musicali di Giorgio, bassista provetto, sono più vicini alle composizioni pop rock tradizionali che alle future derive elettroniche. Il primo LP di Moroder, prodotto nel 1972, si intitola Son of My Father ed è ancora piuttosto lontano dalle sonorità che di lì a non molto sconvolgeranno per sempre la sua carriera, oltre che la storia della musica in generale. La collaborazione con Pete Bellotte si rivela preziosa per la crescita artistica di Giorgio, che gradualmente abbandona gli strumenti più tradizionali, in particolare il basso elettrico, in favore dei sintetizzatori. Si innamora dei suoni elettronici grazie alle produzioni hollywoodiane fantascientifiche degli anni 50 e consolida questa sua infatuazione, seguendo i progressi dei neonati Kraftwerk, band formatasi a Düsseldorf nel 1970 e specializzata in synth-pop, ovvero pop supportato dal massiccio ed estensivo uso dei sintetizzatori. Le derive elettroniche del duo Bellotte-Moroder seguono l'ondata di novità musicali che tra la fine degli anni 60 e l'inizio dei 70 stanno sconvolgendo il panorama tedesco ed europeo. A una parte di questa ondata, quella che coinvolge gli ancora esordienti Kraftwerk, la stampa inglese ha dato il nome di Krautrock. Da una parte il Krautrock, dall'altra la voglia di disco music. E tra queste due istanze, che il centro dell'Europa è schiacciato dal punto di vista musicale. Bellotte e Moroder, pronti a lanciarsi in sperimentazioni a suon di synth e vocoder, hanno però bisogno di un terzo elemento, quello puramente vocale, per chiudere il cerchio. Io e Pete abbiamo incontrato Donna, che era il 74, credo. Ci serviva una cantante americana, brava, per fare dei cori. E lei ci era piaciuta moltissimo. Pete e Giorgio hanno bisogno di una voce femminile che ingentilisca i loro esperimenti, che sappia fare da collante fra le istanze più sperimentali e quelle più danzerecce. Giorgio ha la fortuna di notare la voce di una giovane cantante statunitense che fa i cori di sottofondo in una produzione altrui. Si tratta di una 26enne di Boston, trapiantata in Germania un po' per caso, un po' per lavoro e un po' per amore. Si chiama Donna Summer. Donna Summer. Donna ha una voce splendida, quel tipo di voce che solo le grintose, spavalde donne dalla pelle nera come lei possono permettersi di avere. Ha un passato come cantante di gospel e musical ed è proprio al seguito di uno di questi sontuosi spettacoli teatrali che è approdata anni addietro in Europa. L'incontro con Moroder e Bellotte dà una spinta alla sua carriera come solista. Nel 1974 il trio produce l'album Lady of the Night, che esce unicamente sul mercato olandese. Si tratta ancora di un disco pop rock piuttosto informe, ben confezionato ma sostanzialmente insipido. Nulla che possa permettere a Donna né tantomeno ai suoi produttori di fare il grande salto che meritano. È Moroder ad avere l'intuizione perfetta. Donna gli fa ascoltare una canzone che lei stessa ha composto, una demo di un brano che avrebbe intenzione di affidare alle cure e all'ugola di qualche altra cantante in erba. Giorgio si innamora del pezzo e capisce che a cantare quelle canzoni, invece, non può che essere lei, Donna. E lei stessa a raccontarci com'è andata. Io non credevo che avrei mai cantato quella canzone. L'avevo scritta e poi registrata come una demo. Speravo che avremmo trovato qualche ragazza di talento che l'avrebbe cantata. Quando l'ho scritta, questo era l'intento. Ma poi Giorgio preferì la mia versione. E in pratica è così che è iniziato tutto. A partire da un paio di righe di testo brevi, quasi buttate lì per caso, che inneggiano alla bellezza dell'amore, Giorgio Moroder costruisce un brano sofisticato e meditato. Attratto dall'idea di esplorare i territori di quella disco music che sta diventando via via sempre più popolare, Giorgio vuole che sia proprio Donna a cantare il suo brano, declinandolo in modo sensuale e decisamente provocatorio. Love to Love You Baby deve essere un inno all'amore che scaturisce quasi in diretta dall'atto d'amore in sé. Non devono mancare gemiti e gridolini, riferimenti lascivi a un atto amoroso consumato nel fuggevole tempo di una canzone. La cosa interessante è che io sapevo come Donna cantava, e il modo in cui cantava Love to Love You non era il suo solito modo di cantare. Lei si era divertita in quella demo, ci aveva giocato, aveva tirato fuori questa voce sexy ed evanescente che normalmente non aveva. Certo, nella demo di Love to Love You Baby, Donna si è lasciata andare proprio perché convinta che si trattasse soltanto di un provino per gli addetti ai lavori e che il brano non fosse minimamente destinato a lei. Si sbagliava. Dopo un'iniziale reticenza, Moroder la convince a prestarsi al gioco erotico, sensuale della canzone. Durante l'incisione, Donna chiede a Giorgio che tutte le luci dello studio di registrazione vengano spente per creare l'atmosfera giusta. E sdraiata mollemente su un divano, si immagina di essere Marilyn Monroe immedesimandosi nei suoi panni d'attrice, intenta a girare una lunga, complessa scena d'amore. Il trucco funziona. Decisamente. Tanto per essere chiari su come il disco, l'incisione è stata realizzata. Donna ha cominciato a fare quei gemiti, ma non stava succedendo niente. Così io ho detto, bisogna assolutamente fare qualcosa. No, non quello che pensate voi. Ho buttato fuori dalla sala di incisione suo marito. Il problema era lui. Ho abbassato le luci. e ho lasciato andare il nastro. Credo che lei l'abbia cantato una volta sola, in un unico take. Lei fece tutto da sola. E anche quei suoi gemiti, così caratteristici. Vedevo solo il suo viso a malapena. Le luci erano basse e lei non poteva vedermi. Beh, peccato, perché sarei stato un'ottima fonte di ispirazione. Se il precedente disco Lady of the Night non era nemmeno riuscito a uscire dai confini dei Paesi Bassi, per Love to Love You Baby invece si apriranno ben presto le porte del successo planetario. Destini incrociati a Monaco di Baviera, città tedesca che di norma non evoca grandi exploit in campo artistico. Forse non ci si aspetterebbe di trovare qui due musicisti le cui carriere sono in procinto di deflagrare e riempire le piste da ballo di mezzo mondo. Lui si chiama Giorgio Moroder ed è un produttore fissato con i nuovi suoni elettronici abbinati alla disco music. Lei si chiama Donna Summer e fa la cantante. Sapevo che Donna avrebbe certamente potuto diventare una grande star. Perché era molto bella e piena di talento, e non solo. Scriveva ottimi testi. Era giovane ed aveva un sacco di energia e di voglia di lavorare. Sarebbe diventata qualcuno di sicuro. Donna e Giorgio scrivono insieme Love to Love You Baby, brano che la Summer pensa inizialmente di affidare a un'altra voce femminile. Giorgio invece crede che quella canzone sia fatta su misura per lei e la convince a inciderla con tanto di gemiti, gridolini e riferimenti non troppo velati a un intenso rapporto amoroso. Sotto la voce della Summer, Moroder stende un tappeto di suoni accattivanti che conquistano l'attenzione dell'ascoltatore e non solo. Quei suoni sono apprezzati anche dagli addetti ai lavori, come ci ricorda un'altra regina della disco music, la grande Gloria Gaynor. Lui creava questi suoni innovativi e lo faceva senza gli strumenti tradizionali. Io lo adoravo. Avrebbero potuto venire fuori delle cagate pazzesche da tutti quegli affari che usava, ma invece no. In mezzo a gente che produceva tante schifezze, il suo lavoro era sempre migliore. Giorgio Moroder sapeva sempre far uscire il meglio, il suono più giusto. Ha coniato dei suoni incredibili che sopravvivono ancora oggi, senza essere invecchiati di un giorno. Love to Love You Baby è forse uno dei primi pezzi in assoluto a usare la drum machine in modo innovativo. La combinazione tra una linea ritmica inferiore campionata dai Crusaders e un altro pattern più alto mutuato da Rock the Boat degli Hughes Corporation, il tutto condito dalla sensualissima voce di Donna Summer, attrae l'attenzione del discografico americano Neil Bogart, presidente della Casablanca Records, che chiede a Moroder di produrre una versione estesa del pezzo. Neil Bogart mi ha chiamato una sera e mi disse che l'aveva messa come sottofondo il giorno prima, durante una festa a casa sua. E tutti chiedevano di metterla ancora e ancora e ancora. Giorgio e Donna incidono una versione di Love to Love You Baby da 17 minuti, che approdata in America scala rapidamente le classifiche, piazzandosi all'inizio del 1976 al numero 2 della Hot 100 di Billboard Magazine. E pensare che Donna Summer, col suo retroterra cristiano da cantante di gospel, era scettica e piuttosto preoccupata dell'immagine sexy scaturita da quel disco. Giorgio è la persona che ha definito la mia vita in quel periodo. È stato il catalizzatore della mia carriera in quel momento e di quella futura. È stato anche il mio mentore, lo è tuttora. Ha cominciato a registrare un mucchio di cose con me. Io ero andata in quello studio per registrare solo un paio di robettine e invece è finita che gli sono piaciuta, che ho scritto dei testi per lui e nel giro di brevissimo tempo siamo diventati inseparabili. In quel periodo il mio matrimonio stava andando in mille pezzi, oltretutto, e avevo un disperato bisogno di buttarmi sul lavoro. Io andavo da Giorgio e gli dicevo: «Ehi, hai qualcosa da farmi fare?» Certo che ha qualcosa da farle fare. Giorgio ha da trasformarla in una star, anzi, in una disco queen. La futura regina delle piste da ballo Donna Summer nasce a Boston il 31 dicembre del 1948 e viene registrata all'anagrafe come la Donna Adrian Gaines. Questo è il cognome del padre ed è quello che Donna porterà fino al matrimonio con Helmut Sommer. Fin da piccola cresce in un ambiente intriso di musica, un ingrediente che si rivelerà molto presto fondamentale nel suo percorso verso l'età adulta. È difficile scovare un angolo, un frammento di silenzio in una casa popolata da almeno una dozzina di bambini, come ricorda la stessa donna. Vivevamo in una casa grande, insieme ad altre tre famiglie. Queste tre famiglie avevano un sacco di figli. Ce n'erano tre al piano superiore e cinque a quello di sotto, più altri sette al piano in cui stavo io. C'era sempre gente. Se qualcuno di noi cantava una canzone o metteva su un disco, si sentiva in tutto il resto della casa. Tutta la casa vibrava di musica. Siamo cresciuti in un ambiente pieno di suoni, in una casa orientata molto positivamente nei confronti della musica. L'altro posto in cui esercitarsi a cantare, se provieni da una famiglia di colore e dal massiccio substrato cristiano, è naturalmente una chiesa, e più precisamente la Grant Amy Church di Boston, Massachusetts. È qui che Donna, all'età di 10 anni, sente con forza la sua vocazione. Non tanto quella di figlia di Dio, ma quella più profana di musicista. Era una domenica quel giorno in chiesa. Si teneva una cerimonia speciale. Non ricordo esattamente che cosa si celebrasse. C'era una signorina che era stata chiamata a cantare per l'occasione, ma per qualche motivo non arrivò. Il reverendo sapeva da mia mamma, che lo conosceva bene, che io mi esercitavo spesso a cantare. Non ero perfetta, gorgheggiavo, ce la mettevo tutta, sbagliavo un sacco, ma ci provavo lo stesso. Ero testarda, era come se sapessi che tutto quel cantare mi avrebbe portata da qualche parte, anche se ancora non sapevo dove. Donna è semplicemente una ragazzina che canta davanti allo specchio. Nessuno si aspetta che da quel corpicino esca una voce tanto poderosa. E, insomma, quel giorno mi fecero cantare. Nessuno era preparato, né tantomeno lo ero io. Non avevo mai cantato in uno spazio così grande, così ampio. Ho tirato fuori la voce ed è risuonata imponente. Ha rimbombato nelle pareti della chiesa. Io mi sono quasi spaventata, commossa. Ho iniziato a piangere e non ero la sola. È stato uno dei momenti più belli della mia vita. Dopo che ho sentito la mia voce uscire in quel modo, mi sono sentita come se Dio mi avesse presa da una parte per dirmi: «Donna, tu diventerai molto famosa». Il canto diventa la sua ossessione. Ogni azione è tesa verso l'obiettivo di diventare un giorno non troppo lontano una cantante. Quel giorno, a dire il vero, non si fa affatto aspettare. Nel 1967, giusto una manciata di settimane dopo aver preso il diploma alla Jeremiah E. Burke High School di Boston, Donna ottiene il suo primo ingaggio. Lascia la propria casa e il proprio paese per seguire la tournée del musical Hair in Europa. Così, da un giorno all'altro, Donna Gaines si trasferisce a Monaco di Baviera. La mia vita è cambiata moltissimo da quel momento in poi. Innanzitutto ho imparato a parlare correntemente il tedesco. Le conquiste linguistiche non sono certo l'unico cambiamento nella vita di Donna. Il matrimonio e la prima gravidanza di sicuro pesano di più. Dal marito, Helmut Sommer, oltretutto, prende in prestito quel cognome che, diventato Summer nella versione inglese, si porterà dietro per tutta la vita. Se in famiglia va tutto bene, la carriera stenta un po' a decollare. Essere nel cast di un celebre musical non è cosa da poco, ma si tratta pur sempre di un lavoro corale, poco adatto a far emergere la sua personalità vocale. Anche le esperienze come corista le tornano utili, ma non l'aiutano certo a sfondare. A meno che, durante l'incisione dei cori di background di un pezzo di una band semi sconosciuta, non capiti la fortuna di venir notata dal duo di produttori composto da Pete Bellotte e Giorgio Moroder. Donna è con tutta probabilità una delle cantanti più brave con cui io abbia mai lavorato. La sua estensione è fenomenale. Dopo l'uscita di Love to Love You Baby nel 1975, coronata prima da un modesto successo europeo e poi da quello incredibile sul suolo americano che si riverbera un po' dappertutto, Giorgio Moroder e Donna Summer diventano pressoché inseparabili. Mentre il genio altoatesino non trascura di dedicarsi ai suoi progetti elettronici sperimentali, si occupa di promuovere la carriera della Summer in qualità di incontrastata disco queen. Prossima tappa dell'impresa è l'uscita di una serie di singoli che infiammino le piste da ballo di tutto il mondo, culminate dall'uscita di I Feel Love, un pezzo destinato a modificare per sempre il corso della storia della musica. Quando è uscita I Feel Love, sono cambiate un sacco di cose. Destini incrociati. A metà degli anni 70, Donna Summer, cantante, e Giorgio Moroder, musicista, arrangiatore e produttore, stanno diventando due star a livello mondiale. Tutto è iniziato con i 17 minuti di orgasmo simulato di Love to Love You Baby, canzone controversa e sensuale che li ha lanciati nell'allora potentissimo mercato discografico americano. La fortuna della loro collaborazione prosegue nel 1977 con I Feel Love, un pezzo che rivoluziona non solo le rispettive carriere, ma più in generale la storia della musica. Si dice che Brian Eno, storico produttore di artisti del calibro di David Bowie e dei Devo, non appena sentito le prime note di I Feel Love abbia esclamato: "Questo è il suono del futuro, eccolo. È superfluo cercare altrove." Volevo fare un disco futuristico con Donna Summer e mi sono detto: perché non usare tutti quei nuovissimi sintetizzatori che ho? Ed è così che è nato I Feel Love. I Feel Love si inserisce all'interno di un concept album dal titolo I Remember Yesterday, che vuole ripercorrere il Novecento in musica. I Feel Love è l'ultima traccia del disco, quella che rappresenta la meta ancora da raggiungere. E per creare il futuro è necessario discostarsi dal passato. I violini e quel tipo di strumenti lì sono spariti. È diventato tutto molto più tecnico, più techno, direi. Techno. Giorgio Moroder per la prima volta si discosta totalmente dalla consuetudine della disco music fino a quel momento. Niente più archi né strumenti tradizionali, ma solo una progressione pressoché infinita di un pattern ritmico accattivante, apparentemente crudo ed essenziale, eppure ipnotico ed estremamente complesso. Nelle produzioni di Moroder, i Kraftwerk incontrano la soul music e il risultato è esplosivo. C'è quel beat elettronico, battente, inesauribile. È come se lì dentro si potessero trovare continuamente ritmi e ritmi differenti, stratificati. E poi c'è la sovrapposizione di quella voce eterea, quasi impalpabile, di Donna Summer, che rende il tutto perfetto. Una sinfonia di sintetizzatori. Ecco che cos'è I Feel Love. È stata la prima canzone dove ho scritto la melodia prima del resto del pezzo. Ho usato soltanto i sintetizzatori e ci ho messo un sacco di tempo per trovare la bass line giusta. Ero totalmente concentrato su quello. Ero assorbito dall'elettronica. Se su un fronte più personale e sperimentale Moroder si conferma eccelso stilista dello studio di registrazione, con le sue magnifiche suite elettroniche da From Here to Eternity a Battlestar Galactica, dall'altra continua a mantenere alto il vessillo di Donna Summer in qualità di regina incontrastata della disco, sfornando successi uno dopo l'altro senza apparente soluzione di continuità. Dopo alcuni frenetici anni di collaborazioni e produzioni, negli anni 80 le carriere di Giorgio Moroder e Donna Summer si separano. La Summer, nel periodo seguente, sembra parzialmente rinnegare il suo passato da sensuale disco queen. Donna attraversa una fase spirituale di ritorno a quelle origini cristiane che certamente poco si sposano con i gemiti e le moine di Love to Love You Baby e I Feel Love. Senza questi pezzi, tuttavia, la Summer non avrebbe mai sfondato. Queste canzoni sono state il suo necessario, imprescindibile lasciapassare per il successo. Giorgio Moroder, nel frattempo, ha scoperto una nuova vocazione, quella di produttore e realizzatore di colonne sonore. Trasferitosi a Los Angeles e inaugurato uno studio di registrazione tutto suo, Moroder parte decisamente con il botto. Nel 1978 collabora con Alan Parker per lo score del film Fuga di mezzanotte, che gli vale la prima statuetta dell'Academy Award. Niente male per un principiante. Negli anni seguenti si susseguono altre importanti collaborazioni. Quella con Debbie Harry dei Blondie per Call Me, brano da inserire nella colonna sonora di American Gigolo, più svariati altri scores cinematografici che gli fruttano altri Oscar e molta, moltissima altra fama. Impossibile, pensandoci, non associare immediatamente un accompagnamento musicale a titoli celebri come Flashdance, La storia infinita, Top Gun o Scarface. Beh, l'accompagnamento musicale doveva rispecchiare la figura di Tony, è il personaggio interpretato da Al Pacino. Doveva avere un'aria pericolosa che crea suspense, ma allo stesso tempo profonda. Credo che il tema musicale rifletta piuttosto bene quell'atmosfera che in quel momento si era creata nella mia mente. Un'atmosfera permeata di crimine e cose di quel genere. Folle e instancabile sperimentatore, nel 1984, con la collaborazione di artisti del calibro di Freddie Mercury, riscrive la colonna sonora di un grande classico della fantascienza, Metropolis, di Fritz Lang. I lavori più ricercati nella sua carriera si sono sempre alternati a derive più pop e commerciali, tra cui si annoverano anche svariati inni di manifestazioni sportive, tra cui i mondiali di calcio del 90 e le Olimpiadi di Seul. Tutti traguardi che forse non sarebbero stati possibili se Moroder non avesse raggiunto la fama internazionale grazie alla collaborazione con Donna Summer. Nel 2004 sia Moroder che la Summer sono stati inseriti nella neonata Dance Music Hall of Fame insieme ad artisti del calibro di Barry White e dei Bee Gees. Benché negli ultimi anni della sua carriera la Summer abbia diradato le apparizioni e si sia concentrata sulla famiglia e sulla passione per la pittura, i suoi dischi hanno continuato a infiammare ininterrottamente i dance floor di tutto il mondo. L'universo della musica è rimasto scioccato dalla sua recente scomparsa. Queste le parole di un'altra disco queen, Gloria Gaynor. Sono rimasta malissimo. Non sapevo nemmeno che fosse malata. Nelle piste da ballo dall'Asia all'America, dall'Europa all'Australia, continuano e continueranno a risuonare le note dei suoi brani più celebri, quasi come se il tempo, i decenni e i vari flussi musicali non fossero mai passati. Destini incrociati. Destini incrociati. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco.